Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Otto minuti, ultima puntata della settimana di Focus Economia. E i temi di questa giornata economico-finanziaria, come immaginabile, proseguono le tensioni sui mercati finanziari. Di questo parleremo lungo tutta la seconda ora del programma, quindi dalle 18 alle 18.30. Ascoltando anche quanto ha dichiarato oggi a Trieste il premio Nobel dell'economia il premio Nobel dell'economia Stiglitz durante l'inaugurazione della LUIS, dell'anno accademico della LUIS a Roma. Citando, a mio avviso in maniera assolutamente corretta, questo paradosso per cui prima le banche vengono salvate, le banche americane ma anche alcune banche europee, britanniche, tedesche, non solo, vengono salvate grazie agli aiuti di Stato, ai soldi pubblici, quindi i governi si sono indebitati, e adesso che queste sono tornate a fare utili bastonano i governi che le hanno salvate dicendo avete troppo debito, avete i conti fuori ordine, che è un po' un paradosso, perché insomma veramente è più una beffa che un paradosso. È chiaro che i conti sono saliti, deficit e debito sono saliti oltre i livelli di Maastricht, perché abbiamo dovuto salvare tutti noi il sistema bancario mondiale, finanziario mondiale. Ora, vedere che adesso questi giocano alla speculazione su quale paese cadrà per primo dopo la Grecia la dice lunga su un concetto che noi spesso abbiamo ricordato, non si tratta del gufo, adesso vi arriviamo. Quindi parleremo di andamento dei rendimenti obbligazionari, il cosiddetto spread, la differenza tra quanto costa al governo tedesco far finanziare il suo debito e quanto costa al governo, per esempio, greco, spagnolo o italiano. Sono tutti in aumento purtroppo i differenziali di rendimento tra un'obbligazione tedesca, un'obbligazione italiana, spagnola, irlandese e greca, anche se l'Italia si mantiene su un livello buono, sono 96 punti, lo 0,96%, però insomma sono aumentati anche quelli spagnoli. Le borse hanno provato oggi in più di un'occasione a chiudere la settimana non malissimo, ma non ce l'hanno fatta. Meno 2,3% Milano, meno 3% Parigi, meno 1,4% Francoforte, meno 1,1% Londra, l'America perde lo 0,2%, dati americani sulla disoccupazione non belli. E poi si è scoperto in questi giorni che l'America aveva anche sbagliato i conti sul numero di occupati, praticamente aveva calcolato statisticamente 800.000 occupati in più, si è scoperto che appunto ci sono 800.000 occupati in meno. E anche questo non ha aiutato, dicevo, la disoccupazione americana, ma anche la produzione industriale in Germania. Allora, è calata a dicembre al 2,6%, una frenata in attesa nella produzione industriale tedesca, che resta comunque la locomotiva d'Europa e resta anche il mercato di sbocco più importante per le nostre esportazioni, meno 2,6% dopo il rialzo di novembre. Però l'OCSE dice a dicembre i segnali di ripresa sono stati più forti del previsto, e quindi sia per l'Italia che per i paesi aderenti all'OCSE prosegue l'espansione dell'economia. Mercati, dicevo, speculativi, che giocano a vedere chi può essere fatto fuori grazie a questi conti pubblici, ma non è l'unico paradosso. Stiglitz chiede anche, per esempio, di colpire la speculazione finanziaria aumentando di molto le tasse, più che le tasse, il fisco, il prelievo fiscale su chi appunto si esercita in questi simpatici giochi di speculazione sulle obbligazioni e sulla tenuta dei singoli paesi. L'euro chiaramente oggi è importante, perché è ovvio che dopo la Grecia, che pesa poco, la Spagna pesa molto di più, l'euro continua a indebolirsi, non tantissimo, devo dire a 1,36 nei confronti del dollaro, però insomma siamo sempre su livelli più bassi. Anche nei confronti dello yen siamo rimasti a quota 122 nel rapporto euro-yen. Per dare un'idea, con un euro si compravano 160 yen fino a poco tempo fa. I titoli, qui i cali sono più pesanti purtroppo: Pirelli meno 5,7%, scivola a 39 centesimi di euro per azione, CIR meno 4,7%, Fiat meno 3,90, 8,28 euro, Popolare di Milano meno 3,80, Mondadori meno 3,70 come Xor, Fondiaria meno 3,40 come Intesa San Paolo e Geox, il 3,2 lo perde Autogrill, ma anche Mediolanum e anche Generali. Tenaris e Banco Popolare meno 3,5 5,5% come A2A e Italcementi, ma anche Telecom Italia perde il 2,90%. Chiudo con Mediaset, Saipem e Campari che perdono il 2,7%, Bulgari ed Eni 2,5% di calo, come praticamente UbiBank meno 2,4% ed Enel meno 2,2%, in pregilo meno 2% come Parmalat e Unipol. Chi guadagna? Nessuno. Tra quelli a maggiore capitalizzazione, Terna è quella che perde meno, lo 0,5% come Snam Rete Gas e Lottomatica. In assoluto i migliori e i peggiori: Safilo bene più 5,2%, la Banca Popolare di Spoleto più 2%, Stefanel più 1,7%, invece male Antiche Pelletieri, Gruppo Burani meno 8,8%, Pramac meno 11%. Questo è il tema della seconda parte e ce ne occuperemo anche andando a vedere le attese sui rendimenti obbligazionali. Apriremo invece di nuovo su Fiat, oggi incontro tra sindacati, vertici della Fiat e governo, dopo il botta e risposta di ieri tra il Presidente del Consiglio Berlusconi e i vertici anche della Fiat. Berlusconi aveva detto, lo ricorderete, è la Fiat che non vuole gli incentivi, noi saremo disposti a darli. Marchion aveva fatto capire che prima o poi non si può vivere di soli incentivi. In realtà il messaggio che molti hanno voluto leggere è: attenzione, non pensate di ricattarci con gli incentivi. Oggi invece botta e risposta politico tra il presidente della Fiat Montezemolo, che sempre a margine dell'inaugurazione della Luis a Roma ha detto: ma insomma, la Fiat da quando ci sono io non ha mai ricevuto aiuti di Stato. Risposta piccata del ministro Calderoli, che ha detto: sembra una barzelletta. Ma anche i sindacati hanno risposto, insomma, tutti sanno che la Fiat ha ricevuto aiuti di Stato. A mio avviso, da quello che abbiamo capito, Montezemolo si riferiva alla gestione appunto Montezemolo-Marchionne, non sicuramente agli anni precedenti. 349-238-6666 per i vostri sms. Vedo già che alcuni iniziano a scrivere: lei che difende la Fiat. No, noi non difendiamo la Fiat, non difendiamo nessun gruppo, difendiamo per qualunque gruppo la possibilità in un libero mercato di scegliere se mantenere aperto un impianto o no, perché ritenuto improduttivo. Certo che poi la Fiat deve anche riqualificare quell'area e non abbandonare Termini Imerese a se stessa. Diverso il caso dell'Alcoa, visto che lo scrivete. L'Alcoa ha detto più volte che è in grado di produrre a Portovesme tranquillamente, se però il prezzo dell'elettricità torna a essere quello promesso. Chi produce alluminio ha dei consumi di elettricità che sono addirittura 10 volte superiori a chi produce acciaio, che è già 30 volte superiore a chi produce acciaio, e questo che già è un'industria energivora. Ecco perché il costo dell'elettricità è così importante per Alcoa. Comunque, dicevo, 349-238-6666 per gli sms. Parliamo anche di inflazione stabile oggi in Italia, il dato del mese di gennaio, e poi questi due importanti appuntamenti che complici mercati non siamo riusciti a coprire: Madexpo a Milano e la Fiera Agricola a Verona. E adesso le altre notizie in breve. Partiamo come sempre dalle notizie di carattere internazionale e nel caso specifico il petrolio. $73 il barile. Questa mattina la chiusura dell'Asia è stata da incubo: meno 3% Hong Kong, Tokyo meno 3%, meglio ha fatto Shanghai meno 1,87%, comunque il calo peggiore da tre mesi a questa parte. Taiwan meno 4%. E panic selling, come si chiama in gergo, cioè vendite da panico, questa mattina per i timori sui deficit di Grecia, Portogallo e Spagna. I futures già erano messi male sull'America, l'America adesso però perde solo lo 0,3%. Questa mattina già Madrid aveva aperto con un meno 2,5%, poi vedremo anche Madrid, Parigi e Francoforte con cali superiori al 0,5%, così come Londra e Milano. Come si muovono i differenziali, le differenze tra obbligazioni tedesche, quindi rendimenti delle obbligazioni tedesche e rendimenti delle obbligazioni degli altri paesi? Allora, è salito per la Spagna quota 102 punti base, cioè l'1,02%, ossia costa alla Spagna un punto percentuale in più di riuscire a collocare sul mercato le sue obbligazioni rispetto a quanto non costi la Germania, di cui tutti si fidano, quanto a conti pubblici e non solo. Grecia, siamo al 3,65%, è un record, 365 punti. Portogallo all'1,6%, in aumento anche lo spread con i titoli italiani, la differenza con i titoli italiani è salita a 96 punti, lo 0,96%. Comunque la Commissione Europea ha assicurato di essere vigile sugli sviluppi della crisi. Quello che stiamo monitorando, ha detto il portavoce del Commissario Europeo agli Affari Economico Monetari, Joaquín Almunia, ha detto: stiamo monitorando e controllando la situazione molto da vicino. Ma in Spagna è arrivata una buona notizia: la Spagna continua a essere in recessione, e quindi meno 0,1% nel quarto trimestre del 2009. Praticamente tutti i paesi avevano segnalato un recupero, l'uscita dalla recessione, in questo trimestre la Spagna no. Lì pesa chiaramente il mercato immobiliare. La Spagna ha avuto una crescita molto guidata, se non per larga parte, dal mercato immobiliare. Però il premier spagnolo Zapatero ha detto a Washington, era in visita a Washington, che il sistema finanziario spagnolo è solido e forte. Devo dire in effetti che la Spagna, oltre che avere due grandi gruppi bancari come il Santander e il Banco di Bilbao Vizcaya, ha un deficit sicuramente in aumento, e anche il debito. Però insomma, il debito spagnolo l'anno scorso è andato al 54%, quest'anno dovrebbe andare al 66%, noi ce l'abbiamo al 115%. E il deficit spagnolo è invece molto più alto di quello italiano, al 10% l'anno scorso, e quest'anno previsto all'8,5%. Spagna sta soffrendo molto invece sul fronte occupati, al 18% la disoccupazione, in Italia all'8%, e i consumi hanno preso una sberla non da ridere, meno 5% l'anno scorso l'andamento dei consumi, il PIL ha fatto un meno 3,7, un po' meglio di quello italiano che ha fatto un meno 5. Volete sapere dei PIGS che citavamo ieri, cioè Portogallo, Italia, Irlanda, Grecia e Spagna? Non si cita l'Italia oggi da quasi nessuna parte. A mio avviso la situazione italiana è molto diversa e anche migliore, se si va a sommare, come spesso ricorda il ministro Monti, risparmio privato con risparmio pubblico, quindi le voci complessive, e anche, come ricordava ieri Walter Riolfi, quello che è il debito complessivo, cioè sommando il debito dello Stato con il debito degli enti locali, delle regioni, se arriva al 170% del PIL, beh, in America tu arrivi tranquillamente al 400% del PIL se sommi il debito federale con quello degli singoli stati, dei vari comuni. Inflazione italiana allo 0,1% mese su mese, gennaio su dicembre, più 1,3% rispetto al gennaio di un anno fa, quindi l'inflazione è all'1,3%, cambia anche il paniere, e sono entrati le badanti e i voli low cost, mentre sono uscite dai 521 beni la lampadina tradizionale e i fiammiferi e anche la riparazione dell'orologio. Adesso partiamo con il primo tema, mi riferisco alla Fiat, vicenda Fiat e anche Alcoa. Ci stiamo aprendo il programma da giorni, ma non può essere altrimenti. Purtroppo ieri abbiamo chiuso il programma con una conferma che andranno a casa i 350 ricercatori della Glaxo di Verona, perché l'utile è cresciuto ma non quanto le attese, da 14% atteso sono cresciuti dell'11% la Glaxo Welcome. Decisione anch'essa che sicuramente non avremmo voluto raccontare. Fiat, nulla di fatto al vertice oggi, ma soprattutto di nuovo restano diverse le posizioni tra l'azienda e da un lato e il governo e i sindacati dall'altro. Allora, volete sapere che cos'è la differenza tra deficit e debito? Il deficit è il debito è l'insieme di tutti i deficit accumulati più gli interessi che paghi per questi deficit. Il deficit è la differenza tra quanto entra e quanto esce in un anno nelle casse dello Stato. Se entra più di quello che esce, sei in attivo; se esce più di quello che entra, sei in deficit. E a forza di accumulare deficit si crea il debito, che poi devi finanziare, e ci paghi sopra anche gli interessi come una famiglia normale. Noi paghiamo come Italia 70 miliardi di euro l'anno solo di interessi sul debito. Allora, Fiat, Termini Imerese, questa mattina incontro al Ministero dello Sviluppo Economico tra i vari rappresentanti. Secondo quanto hanno detto i rappresentanti della Fiat al tavolo del Ministero, la metà degli operai di Termini Imerese avrebbero i requisiti per la mobilità con l'aggancio alla pensione. L'IKEA però nel frattempo ha escluso ogni interesse a un investimento nell'area di Termini Imerese. Deluso dall'incontro il segretario della UILM Palermo, Vincenzo Comella. La situazione continua a essere quella che avevamo. Abbiamo la Fiat che continua a sostenere che si vuole disimpegnare da Termini Imerese, continua a dare non disponibilità a quelle che possono essere le richieste del sindacato di continuare a costruire auto, e nemmeno è disponibile a rivedere quella che era la condizione del 18 giugno di un'eventuale riconversione. Quindi c'è una netta chiusura da parte della Fiat su Termini Imerese. Si ritiene disponibile a fare delle cose, delle collaborazioni per salvaguardare i posti di lavoro, ma non si capisce come, in quanto sarebbe disponibile a cedere gli immobili, ma non è disponibile a cedere assolutamente tecnologia. Quindi questa è la condizione. L'altra condizione è mancanza di autorevolezza del governo, che continua a brancolare, a fissare, a ridare tavoli e non si fa carico dei problemi sociali che questa scelta provoca. Così il segretario della UIL Palermo Vincenzo Comella e anche netto giudizio del governatore della regione Sicilia Raffaele Lombardo, sempre al microfono del nostro Vincenzo Miglietta e sempre al termine dell'incontro di oggi con sullo stabilimento Fiat di Termini Imerese, ha detto Lombardo: Termini deve continuare a produrre auto. A noi interessano ovviamente solo quelle che consentono di continuare la produzione di autovetture, non la vendita di stoviglie o lampade da tavolo. Dopodiché siamo rimasti che ciascuno di noi, il mondo del lavoro, i lavoratori, soprattutto la Fiat, la Regione e il Governo, ecco, facciano una proposta nero su bianco dicendo: noi siamo disposti a fare questo, questo, questo, questo e quest'altro. I punti fermi quali sono? Intanto che lì si devono produrre autovetture, perché c'è un patrimonio di professionalità che è stato conquistato nel tempo, numero uno. Secondo fatto che noi contestiamo questo piano industriale della Fiat di dismissione dello stabilimento, per cui il governo, la regione, i lavoratori premeranno perché questa scelta venga modificata. Così Raffaele Lombardo. Sentiamo adesso invece l'opinione della presidente Confindustria Emma Marcegaglia proprio su Termini Imerese. Ha detto: attenzione, se si fanno stabilimenti anche fortemente sussidiati ma che non hanno una ragione economica, cioè che non riescono a produrre utili, a stare in piedi, non c'è incentivo che tenga. Sentiamola al microfono della nostra Chiara Grandis a margine della presentazione del programma del centenario di Confindustria. Termini Imerese, quello che noi abbiamo detto è piuttosto chiaro: lì siamo di fronte a uno stabilimento che ha non da oggi, no? Un profilo di minore produttività, di scarsa efficienza, di problemi di logistica molto significativa. I conti dicono che fare un'auto lì costa 1000 euro in più rispetto a farlo in altri stabilimenti. E quindi il tema vero dal nostro punto di vista non è quello di, anche non si potrebbe, non sarebbe giusto, ci mancherebbe altro, ma di insistere, obbligare un imprenditore a mantenere lo stabilimento lì, perché poi alla fine non regge, insomma le cose contro il mercato, contro le convenienze economiche possono reggere qualche mese, ma poi non stanno in piedi. Il tema vero è reimpiegare le persone che perdono il posto di lavoro, quindi qui il problema non è mantenere lo stabilimento, il problema è mantenere i posti di lavoro. E allora su questo mi pare che si stia proprio ragionando, anche proprio in questa a pochi passi da qui. Ci sono alcune proposte alternative, mi pare che ci sia anche da parte della Fiat ovviamente la disponibilità a non a mantenere l'azienda lì, ma insomma a ragionare su come supportare e creare questi nuovi posti di lavoro. Ecco, io credo che questo sia l'atteggiamento giusto. Così Emma Marcegaglia. Poi passeremo invece alla vicenda anche un po' politica degli incentivi. Leggo alcuni messaggi, beh, alcuni sono a favore, altri dicono, nel caso specifico uno, la sua trasmissione è come la Fiat, fa pena. Vabbè, non so, io non do giudizi sulle auto, può essere, ci mancherebbe, però vorrei capire una cosa. Quando ho chiuso Arese ci lavoravano 2000, c'erano ai tempi d'oro 25.000 persone. Comunque non ho visto questa levata di scudi. Si stanno chiudendo purtroppo, e molte volte li raccontiamo, stabilimenti interi o piccole imprese nel nord, c'è una moria di subfornitori, non ne parla nessuno. Noi cerchiamo di raccontarvelo, facciamo praticamente ogni settimana cosa succede oltre a Termini Imerese ad Alcoa. Tutto questo interesse, diciamo, dei governi regionali, del governo nazionale solo per Termini Imerese, quando è stato detto in ogni salsa che quella fabbrica lì non è produttiva. Non so, non vorrei che ci fosse anche un atteggiamento, mettiamolo così, politico nei confronti della Fiat, perché se no non capisco perché Fonmedia, Trino Vercellese, sono tutti a casa i 7.000 lavoratori, GlaxoSmithKline l'abbiamo raccontato ieri, Gioia Tauro, ci sono 4.000 lavoratori che rischiano la cassa integrazione, Eutelia 3.100 posti di lavoro, Voicity 800 operatori da 2 mesi senza una lira. Ieri abbiamo raccontato anche la beffa di quei 4 dipendenti che non ricevono lo stipendio da 10 mesi e si sono visti anche mandare una lettera perché erano scarsamente produttivi. Insomma, va benissimo parlare anche di Termini, anche con un'espansione economica. La Fiat l'ha detto chiaramente, quella fabbrica lì andrà chiusa perché non è produttiva dal punto di vista logistico e dell'indotto. Sì, ho dimenticato Novacente Magente, 200 dipendenti dell'azienda che produce i filati sono in cassa integrazione da 20 mesi, la Maflo a Trezzano sul Naviglio, 330 dipendenti di cui 280 in cassa integrazione. Insomma, non c'è solo il Termini Imerese e non si capisce perché negli altri casi invece tutto passi un po' più sotto silenzio. Comunque, il presidente della Fiat Montezemolo, parlando in questo caso non di Termini Imerese ma degli incentivi, ha detto col governo il rapporto è chiaro, tutta quella polemica che è scaturita sugli incentivi rischia di essere demagogica, il 70% degli incentivi dati alla rottamazione va alle auto estere e ha anche aggiunto, da quando sono alla Fiat, così la chiariamo, non abbiamo ricevuto un euro dallo Stato. Sentiamo Montezemolo. Da quando noi siamo alla Fiat, la Fiat non ha ricevuto un euro dallo Stato. Ieri ho visto delle cifre che dicono che gli incentivi che sono dati non alle aziende ma ai consumatori, cioè chiunque di noi vuole comprare una macchina ha la possibilità di avere uno sconto, sono andati per il 70% alle aziende straniere, solo il 30% alle Fiat. Quindi io credo che noi dobbiamo uscire da un approccio demagogico e guardare la realtà. Sì, poi faccio notare che se si tenesse in vita Termini Imerese, lo scrivono molti ascoltatori, al 349-238-6666, sarebbe coi soldi pubblici, coi soldi nostri, per cui decidiamo poi che allora la Fiat deve essere mantenuta in vita coi soldi pubblici, modello IRI, però poi non si può più criticare la Fiat che costa a tutti i contribuenti determinate cifre. Io, insomma, questo programma, l'idea è molto chiara su cosa fare di Termini Imerese, riconversione. Abbiamo avuto ospiti, diversi imprenditori che sono pronti a mettere i soldi per fare una riconversione vera e propria. A mio avviso la Fiat va chiesto questo, va chiesto di garantire la possibilità di riconversione, facilitare la riconversione di Termini Imerese. Comunque, dopo questa dichiarazione di Montezemolo, il ministro Calderoli, ministro per la semplificazione normativa, ha detto: ma siamo alle barzellette, se Montezemolo voleva scherzare sembra una barzelletta, se invece non scherza e parla sul serio allora la faccenda assume contorni sanitari. Montezemolo ha ribattuto: non voglio rispondere alle parole di Calderoli, ma bisogna fare attenzione a non far confusione, gli incentivi sono un sostegno ai consumi, non sono soldi che vengono dati alle aziende. Io parlo, mi riferivo agli aiuti, e come abbiamo sentito gli incentivi poi per il 70% vengono usati da case straniere, va benissimo anche questo. E poi sempre al microfono della nostra Alessandra Schepisi ha ribadito l'attenzione ai lavoratori. Quello che mi interessa è sottolineare la centralità per me, per noi, per la Fiat, degli uomini e delle donne che vi lavorano, e quindi l'impegno che c'è da parte nostra di farci carico insieme alle istituzioni, insieme alle forze sociali, di un problema che è un problema che riguarda le nostre persone. Questo l'ho detto anche al cardinale Bertone in risposta all'invito e alla riflessione che e il Sommo Pontefice aveva posto ai governi, alle forze sociali e alle imprese. E quindi scelte industriali che vanno anche in favore della mantenere competitiva un'azienda non possono essere disgiunte dal farsi carico di problemi che riguardano le famiglie e le nostre persone. Questo per me è un tema centrale. E l'altro tema è uscire da un chiacchiericcio che lascia il tempo che trova di dichiarazioni continue sulla italianità della Fiat. La Fiat è e rimane italiana non solo perché è l'unica azienda automobilistica al mondo che si chiama Fiat, si chiama Fabbrica Italiana Automobili Torino, ma soprattutto perché vi do una cifra. Da quando sono presidente della Fiat e Marchionne amministratore delegato, parlo del seconda metà del 2004, noi abbiamo investito nel mondo 25 miliardi di euro. In Italia ne abbiamo investiti oltre 16. Questo è l'ultimo passaggio del presidente della Fiat Montezemolo sulla italianità. Su 25 miliardi investiti, 16 investiti in Italia. Va detto però, per correttezza dell'informazione, che la Fiat ha oggettivamente un basso tasso di produzione in Italia rispetto a quello che è il venduto italiano. Cioè, di tutte le auto Fiat che vengono comprate in Italia, solo, cioè su 100 auto Fiat, dei marchi Fiat, comprate in Italia, solo 34 sono prodotte in Italia. In Francia sono il 105, cioè 5 vanno all'export, producono più di quanto non, in Francia più di quanto non vendano in Francia, il 166 in Spagna, il 180 in Germania, cioè su 180 macchine prodotte in Germania, 100 vengono vendute in Germania, 80 vengono esportate. Questo è oggettivamente vero, e che nulla toglie sugli investimenti fatti in questi anni dalla Fiat anche in Italia. Adesso le informazioni meteo, la pubblicità, poi la vicenda dell'Alcoa con qualche sviluppo e i mercati che hanno chiuso male, meno 2,75%. Volete di nuovo Gordon Jekyll sull'avidità? Beh sì, quello che sta capitando è paradossale. Punire i governi perché hanno banche d'affari che puniscono i governi perché le hanno salvate. A questo punto bisognava lasciarle forse andare giù, e che erano troppo grandi, too big to fail, come dicono, come si dice in americano, perché vedere che adesso si specula e si guadagna sulla possibilità che qualche stato salti per aria dopo che tutti i contribuenti europei e americani hanno salvato i geni di Wall Street, della City, di Piazza Affari, ma... minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Adesso arriviamo anche a questa giornata di borsa. Oggi veramente i temi della giornata economico-finanziaria sono due: borse, e vi dedicheremo tutta la seconda ora, e Fiat, Termini Imerese, l'occupazione. Allora, per quello che riguarda gli incentivi, vedo molti messaggi al 349-238-6666 che dicono, in sostanza, li riassumo: ma come fa Montezemolo a dire che non ha ricevuto aiuti da quando è presidente? Gli incentivi alla rottamazione cosa sono? Ognuno può pensarla come vuole, ma sono una cosa molto molto diversa. Aiuti significa, allora a questo punto è più un aiuto alla cassa integrazione quando viene pagata dall'INPS. L'incentivo è non solo per le auto, per il legno arredo, per altri settori, è in realtà una cosa un po' diversa, perché non va a aiutare la singola azienda, ci mancherebbe, va a aiutare appunto paradossalmente con gli incentivi alla rottamazione. Abbiamo comprato 70 auto straniere su 100, non solo auto Fiat, si va a aiutare il consumo, quindi è un incentivo al consumo più che alla singola azienda. Se poi uno ha un brutto modello non vende anche con gli incentivi, se ha un bel modello ne venderà molto di più, per cui a mio avviso il libero mercato, la concorrenza è assolutamente rispettata, gli incentivi valgono per il settore. E di incentivi è tornata a parlare oggi Emma Marcegaglia, il microfono della nostra Chiara Grandis, e ha detto serve complessivamente un aiuto ai consumi e agli investimenti, anche perché l'industria italiana, l'industria non la Fiat, è quella che in Europa ha ricevuto meno agevolazioni di tutti i paesi che aderiscono all'euro. Certo che ci sono i conti pubblici italiani, ma comunque anche questo nei numeri è un dato di fatto. Il nostro paese, la verità è che è l'unico paese che non ha avuto nessun sostegno, quindi le imprese italiane quello che hanno fatto l'hanno fatto con la loro forza, con la loro capacità di stare sui mercati, con il mantenere anche in un momento così complicato un'attenzione fortissima all'esportazione, anche se chiaramente è calata fortemente. Quindi la verità è che nessuno ha preso niente in Italia, tranne ovviamente ci sono stati gli incentivi all'auto, che ricordo che però ci sono stati in tutti i paesi europei, perché ci sono stati in Germania, ci sono stati in Francia, ci sono stati in Inghilterra, ci sono stati in Spagna, no? E quindi oltretutto il governo italiano è stato atteso, come dire, una decisione un po' a livello europeo per decidere di dare gli incentivi all'auto. Ma ribadisco, ovviamente negli Stati Uniti sono stati molto più che incentivi, no? C'è stato il salvataggio proprio delle aziende automobilistiche americane. Quindi quello che noi stiamo dicendo in questo momento è, in un paese, come dicevo proprio prima, che per motivi di bilancio non ha avuto pacchetti di stimolo, in questo momento qui che ci sia qualche sostegno ai consumi piuttosto che attraverso la Tremonti Ter, agli investimenti limitati nel tempo, che possano aiutare questa congiuntura che, seppur in lieve miglioramento, è ancora una congiuntura molto problematica, beh, questo poi è il modo migliore anche per mantenere i posti di lavoro, no? E per cercare di uscire da questa situazione. Chiudiamo per oggi la pagina sulle tensioni aziendali, le annunci di stabilimenti che chiudono. Abbiamo dato la lista prima, vedo che alcuni ci chiedono di raccontare anche altri casi, ma l'abbiamo appena ricordata la lista: Glaxo, Gioia Tauro, Eutelia, Voice City, Fonomedia, Novecento Magenta, Maflo, Yamaha, che invece si è conclusa positivamente, l'Ispra, insomma ce ne sono purtroppo tante, e queste sono solo quelle più conosciute. Le miriade di piccole, piccolissime imprese, artigiani o piccoli industriali, non riusciamo nemmeno a raccontarlo, dico con la massima sincerità. Alcoa, 400 dipendenti a Porto Vesme, 120 a Fusina, a Mestre. Oggi sciopero in tutta la Sardegna, sciopero regionale, 30.000 persone in corteo a Cagliari. E praticamente anche su questo è intervenuto la presidente di Confindustria Marcia Gaglia, dicendo: attenzione, che se ci sono le agevolazioni non si capisce quale sia il motivo per chiudere l'Alcoa di Porto Vesme. L'Alcoa ha chiesto una serie di agevolazioni sul costo dell'energia, le agevolazioni sono state portate avanti, adesso stiamo attendendo la risposta dell'Europa, però insomma è evidente che se poi la risposta dovesse essere positiva sarebbe abbastanza... non si capirebbe, come dire, perché, nonostante, no, questa agevolazione richiesta e su cui il governo italiano e anche noi stessi insomma abbiamo lavorato, se in presenza di questa richiesta accolta ci fosse comunque la volontà di andarsene, insomma questo sarebbe un fatto non positivo. Vabbè, questo è il commento di Emma Marcegaglia. Vedo che alcuni dicono: sei il solito Zerbino di Montezemolo. Vabbè, ognuno la pensi come vuole. Invece faccio notare un paio di... alcuni ascoltatori scrivono su Calderoli, ma sono giudizi politici quindi non li leggo, è meglio così. E invece sul governatore della regione Sicilia Lombardo, beh sì, avete ragione che insomma la regione Sicilia potrebbe anche un po' pensare a come usa i soldi pubblici, a come rintornerà dentro al deficit sanitario, cioè insomma c'è un'espressione, si dice insomma fare il manager con l'impresa degli altri, l'espressione non è proprio così ma l'abbiamo un po' edulcorata, sembrava un po' così, insomma ricevere lezioni di efficienza da chi gestisce la regione Sicilia, con tutto il rispetto, però questo no. La borsa, meno 2,75% a 20.000 punti Milano oggi, meno 3,40 a Parigi, meno 1,80 a Francoforte e meno 1,5 Londra. L'America sta peggiorando, meno 0,7% il Dow Jones. E siccome devo leggere una lista pesante di titoli, e inizia adesso forse la parte più negativa del programma, esorcizziamo il tutto con il nostro animale che speravamo fosse andato molto in letargo, in realtà grazie alla speculazione finanziaria lo stanno risvegliando. Allora, il gufo c'è, le gufate anche, Paolo Paronetto, Radio Cori, Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a tutti. Guffate mica tanto, perché qui purtroppo il mercato non ne vuole sapere, ci ha tentato oggi di un piccolo rimbalzo, di chiudere la settimana, ma insomma i cari sono pesanti. C'è qualche, poi ne parliamo dopo le informazioni sul traffico, ma c'è qualche logica, oppure quando si entra in questo canale ribassista o questo panic selling, come dicono quelli che hanno studiato, tutto va giù in maniera indistinta, perché Pirelli perde il 5,4, Ciri il 5,1, ci sono titoli, penso a Terna, Snam e l'Automatica, che invece hanno contenuto il danno a un mezzo punto percentuale. Certo, delle sale operative segnalano la continuazione della tendenza di ieri, sono sempre i timori sulla tenuta dei bilanci di Grecia, Spagna e Portogallo che hanno innescato questa speculazione che ha portato molti operatori a smontare le posizioni messe negli mesi scorsi sui titoli azionari sulle borse europee e anche sulle valute, perché ricordiamo che anche l'euro continua a indebolirsi nei confronti del dollaro e quindi tutti i titoli azionari sono indistintamente in flessione, con alcune poche eccezioni, quindi non c'è nessun motivo particolare sui singoli titoli, è un movimento generalizzato che coinvolge ovviamente tutta l'Europa. In particolare, come ieri abbiamo ricordato, il calo pesante della borsa di Madrid, che oggi invece ha contenuto le perdite all'1%, ha fatto meglio di altri listini, ma appunto ieri aveva già perso molto terreno. Allora, Paolo Paronetto di nuovo in diretta per commentare questa borsa. Anche qui tu dicevi giustamente che i titoli più difensivi hanno tenuto, devo dire che anche l'Automatica, oltre che l'Automatica, anche Ansaldo ha perso l'1,2, Ansaldo STS, Mediobanca ha perso poco, l'1,4, Monte dei Paschi pure 1,5%, come ST Microelectronics e Prismian. Non c'è nulla, lo dico chi ce lo chiede, di positivo tra i titoli maggiori. In pregilo -1,7, cito quelli che sono calati meno dell'indice: Finmeccanica -1,80, Atlantia -1,90, Luxottica -2, come Unicredito e Bulgari, Parmalat -2,40, Enel -2,40 come Saipem, A2A -2,6, Tenaris -2,80 come Italcementi. E qui arriviamo invece a chi ha perso come o più dell'indice. Leggo rapidamente la lista. Allora, il 2,90 l'ha perso UbiBanca, il 3% Telecom e anche Campari e anche il Banco Popolare e Buzzi Unicem. Eni ha perso il 3,1, Mediaset il 3,2 come Mediolanum e Generali. Geox ha perso il 3,3 come Autogrill e Fondiaria. Exor ha perso il 3,5. Mondadori il 3,80, Intesa il 4%, Fiat -4,3, Banca Popolare di Milano pure. CIR -5,1, Pirelli -5,4%. Come mai soprattutto su Popolare Milano, CIR e Pirelli, oltre che Fiat? Per quanto... E anche Intesa, facciamo questi 5. Sì, per quanto riguarda Pirelli, il titolo ha scontato, oltre alla debolezza generale di tutte le azioni legate al comparto auto, che anche oggi è stato tra i peggiori in tutta Europa, il sottoindice di settore ha perso il 3,1%, inoltre Pirelli ieri era stato tra i titoli migliori, era stato uno di quelli che aveva cercato di limitare le perdite grazie a un report positivo di una banca d'affari, e quindi oggi diciamo che ha perso anche quello che non aveva perso ieri. È stata colpita da tutti gli investitori che hanno realizzato dopo le flessioni, i rialzi delle ultime, delle precedenti sedute, quindi oggi è stato il peggiore del listino. Sì. E anche le banche, molti titoli di banche sono stati tra i peggiori, ricordiamo che anche le banche erano tra quelli che avevano più corso dopo i minimi toccati all'inizio dell'anno scorso dai listini azionari. BPM in particolare aveva beneficiato nelle ultime sedute. Intesa San Paolo anche lei ha perso oggi oltre il 4%. Io non, se ne parleremo nella seconda ora, io non capisco però che cosa sia successo, perché quando vedo poi Parigi perdere il 3,40 oggi e Londra aveva 1,5%, Francoforte l'1,80 e Madrid perdere solo l'1%, allora ho capito che la borsa non è sempre dominata dalla razionalità, ma non può neanche essere sempre dominata dalla schizofrenia. Cioè, perché Madrid perde solo l'1 se la Spagna, il paese su cui gli speculatori scommettono, e Parigi, che non ha nessun problema di tenuta dei conti pubblici, che anzi è il paese che ha meno perso, che è meno calato quanto a PIL negli ultimi 2 anni, perde il 3,40? Beh, ovviamente le spiegazioni non sono univoche, si segnala che Madrid è stata colpita ieri, ha perso quasi il 6% in prima battuta e poi la parola d'ordine adesso è speculazione, si prende come diciamo così spunto dai timori sulla tenuta del debito di questi paesi per passare ai realizzi sui titoli che avevano guadagnato di recente, quindi dopo aver realizzato sui mercati più esposti, cioè Madrid ieri è passato su tutti gli altri. Cioè, questa è la grande capacità di discernimento degli speculatori, un colpo al cerchio, un colpo alla botte, no? Cioè, ieri Madrid-Milano, oggi Parigi-Francoforte, vabbè. No, è per capire appunto come, non ce l'ho mica con te Paolo, però per capire quale sia la logica dietro Parigi che perde il 3,5% con un paese che dal punto di vista dei conti pubblici dell'economia solidissimo. Va bene, oltre Pirelli, scusami ti avevo interrotto, il -5,4% e CIR -5,1%, i difensivi li abbiamo detti, molto male Telecom Italia Media. Telecom Italia Media è stato tra i titoli peggiori nel corso dell'intera seduta e alla fine della giornata il titolo ha perso il 4,73%, ma ha pesato fin dall'inizio l'ipotesi di un aumento di capitale. Secondo quanto scrive oggi La Repubblica, la società starebbe pensando a un aumento di capitale di circa 300 milioni e poco dopo la società con un comunicato ha confermato che nel corso del consiglio di amministrazione che a breve sarà convocato, si riunirà e tra le varie ipotesi che saranno analizzate c'è anche quella appunto di un aumento di capitale per il rafforzamento patrimoniale della società. Ovviamente una notizia che il mercato ha accolto male, come accade quasi sempre in questi casi, il titolo è stato venduto fin dall'avvio e appunto ha perso il 4,7% alla fine. Grazie a Paolo Paronetto, Radio Corri sulle 24 ore, buon fine settimana a te e ai colleghi dell'agenzia di stampa. Miglior titolo Panaria Group 20%, Safilo, Paolo ci sei ancora? No, l'abbiamo perso. Sì, sono qui. Ecco, Safilo Group più 5,2%, che ce lo chiedono anche molti ascoltatori, c'è notizia o no? Sì, in questo caso c'è notizia, il titolo è stato in controtendenza e ha chiuso tra i migliori, oggi è arrivata la chiusura dell'accordo con le banche per la ristrutturazione del debito e contestualmente l'annuncio che il nuovo socio olandese Dial ha sottoscritto e versato l'aumento di capitale a lui riservato salendo all'11% della società, quindi diciamo che si chiude la ristrutturazione del gruppo, almeno questa prima fase, e quindi la borsa ha premiato il nuovo assetto. Adesso grazie definitivamente a Paolo Paronetto, Radio Corri sulle 24 ore. Allora, prima di tornare sulla speculazione su questi geni che insomma stanno scommettendo sul crollo della Spagna, sull'uscita della Spagna, restiamo sul tema dell'occupazione, perché da Madexpo, che è il principale appuntamento italiano dedicato all'architettura e all'edilizia, è arrivato un allarme, ed è giusto parlare anche dei piccoli piccolissimi, come dicevo prima. Secondo il presidente anche di Federlegno Arredo, ma comunque nel settore edilizia e costruzioni, il 2010 potrebbe portare a 150.000 posti di lavoro a rischio, dopo averne già persi 100.000, silenziosi, licenziamenti silenziosi, non fanno notizie, non ci sono i governatori e i politici che prendono posizione, però 100.000 posti persi l'anno scorso. Un giudizio sull'andamento del settore lo ha fatto Rosario Messina, presidente di Federlegno Arredo, al microfono del nostro Paolo Piacenza. Nel 2009 abbiamo avuto lo shock di una febbre altissima, per cui ora evidentemente nel 2010 bisogna trovare le cure e le soluzioni. Da una parte è necessario che intervenga il governo sul piano casa, sulle infrastrutture. Le imprese hanno e stanno rispondendo con un continuo sistema di innovazione sui materiali, sulle problematiche di risparmio energetico, sull'ecosostenibilità, sulla sicurezza del cantiere, non solo delle costruzioni, ma del cantiere anche dell'individuo che lavora lì. La competizione ormai è fra paesi, non è più fra aziende, ecco perché il governo deve dare una risposta, perché la singola impresa da sola non ce la fa più. Dovremo necessariamente essere un sistema con a fianco a noi il governo. Che tipo di risposta concretamente? Concretamente che Piano Casa è partito a parole un anno fa ed è ancora fermo, le infrastrutture sono state finanziate per un'entità di 10 miliardi, man mano verranno finanziate, sì, ma non si può aspettare 20 anni, e poi ci sarebbe il piano piano dell'edilizia sociale, l'edilizia scolastica, c'è tutto un insieme di costruzioni in tale che deve essere adeguato alle nuove normative, cui ristrutturare non le case ma anche le scuole, gli uffici pubblici. Le imprese nel 2010 non possono da sole superare un momento di stabilità, bisogna che ci sia l'intervento pubblico, c'è un problema drammatico, le banche alle imprese soldi non ne danno. Abbiamo risolto il problema con le banche locali, ma le banche nazionali purtroppo non danno credito non all'impresa che sta male, ma neanche a quella che sta bene. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per parlare adesso di quello che sta capitando anche oggi ed è capitato anche oggi sui mercati. L'America continua a perdere mezzo punto percentuale, Parigi è scivolata, un tonfo in Francia del 3,5%, Milano è arrivata a perdere quasi il 3% anche oggi, meno 2,80%. Ma al di là di questo i motivi si chiamano scommessa, speculazione dei mercati sul rischio o sulla capacità di tenuta di alcuni paesi, nel caso specifico dopo la Grecia, il Portogallo e la Spagna, lo si vede dalle misure principali che si utilizza in questi casi per capire quanto venga valutato rischioso o meno un paese, si chiama il divario di rendimento. Molti ci chiedono maggiori spiegazioni su questo, è un po' come se voi doveste prendere un prestito dalla banca, il tasso di interesse delle volte dipende da quanto praticato, da quanto affidabile sei. Allora, meno sei affidabile, più alto è il rendimento delle obbligazioni che un paese deve emettere per averle sottoscritte, e più basso è invece il rendimento delle obbligazioni, più affidabile sei, perché vuol dire che ti comprano il debito comunque, anche se rende pochissimo comprare il debito. Il divario tra quello che è il riferimento, che è il Bund tedesco, quindi l'obbligazione tedesca a 10 anni, e la Spagna è arrivato a un punto percentuale molto alto. In Grecia siamo ormai al 3,65%, in Portogallo all'1,6%. Anche quello sui titoli italiani è cresciuto a 96 punti, quindi lo 0,96%. Parliamo adesso di obbligazioni e poi di questa finanza americana, ma non solo, che si è rimessa a fare esattamente tutto quello che faceva prima. L'abbiamo visto dagli utili delle grandi banche americane, Goldman Sachs, Bank of America. Mi riferisco a speculazione finanziaria da un lato e a mega bonus per i dipendenti dall'altro. Prima di tutto però, come si sta muovendo il mercato obbligazionario? Allora, al di là delle vendite da panico, come le chiamano in gergo gli operatori, io vorrei capire veramente se al di là degli speculatori, questi nuovi untori, c'è qualcuno che sta scommettendo sul crollo dell'economia spagnola. I dati in questo caso dovrebbero essere importanti. La Spagna, per quanto abbia avuto una grossa batosta, e di oggi il dato che è in recessione anche nell'ultimo trimestre, ha un debito che è al 54% del PIL, noi ce l'abbiamo al 115%. E ancora ha avuto un deficit pesantissimo l'anno scorso, il 10%, ma il vero problema in Spagna sono i consumi, meno 5%, e la disoccupazione che ha toccato già il 18% l'anno scorso. Detto ciò, io la domanda la faccio ad Angelo Drusiani, che è stato molte volte ospite nostro in questi anni per parlare di obbligazioni, sia a Savadanaio che a Focus Economia, è responsabile di gestione della banca Albertini SITS. Buonasera. Buonasera a voi. Allora, dottor Drusiani, mi dica una cosa, lei sta scommettendo che la Spagna faccia la fine della Grecia? No, io non credo assolutamente, non appartengo a quel novero di speculatori a cui lei faceva riferimento. Gli speculatori sono sempre gli altri, adesso non ce l'ho con lei, ma no, gli speculatori sono sempre gli altri. No, certo. Io però credo che l'aspetto più triste di questa situazione è che, presumibilmente, anche se non si ha la certezza, molte delle banche che sono state salvate proprio dal debito pubblico, ecco che stanno affossando il debito pubblico, in pratica si rivoltano contro chi le ha salvate. Sì, è un po' come se uno si fermasse con la macchina per soccorrere uno che si è fatto male e poi sto qua gli fregasse la macchina. Adesso mi passi l'esempio, cioè tutti questi debiti dei vari paesi, i paesi hanno imbarcato debito per salvare le banche. Perfettamente, perfetto. Io sono assolutamente, è vero che nella finanza difficilmente esiste l'etica, però credo che siamo in una situazione... Non diamolo così per scontato che non esista l'etica. No, in genere nella vecchia finanza. Quella nuova invece, a giudicare da quello che capita, ridateci la vecchia. Ma Allora, se è assolutamente, diciamo così, usiamo un parolone, immorale andare a punire i debiti dei paesi dopo che i paesi con questi debiti hanno salvato il sistema finanziario europeo e americano, perché è comodo fare utili adesso, se non ci fossero quei soldi a fine 2008 e inizio 2009 voglio vedere dove arrivavamo, altro che Lehman Brothers. E allora chi è secondo lei che si sta prendendo questi rischi? Perché il mercato è molto netto, cioè meno 2,80 anche oggi Milano, meno 3,5 Parigi, meno 1,80 Francoforte, gli spread, le differenze nei rendimenti continuano a aumentare. Cioè, c'è qualcuno che sta veramente facendo questo ragionamento, oppure secondo lei sono grandi banche, grandi soggetti che si muovono nella stessa direzione, speculano sui ribassi e poi andranno a vendere, guadagneranno e andranno invece a ricomprare scommettendo sul rialzo? Io appartengo alla linea di pensiero che fa riferimento a quest'ultimo aspetto, cioè c'è una fortissima corrente speculativa che in questa fase utilizza soprattutto per i mercati azionari i futures, cioè i prodotti derivati, gli strumenti derivati che consentono di vendere anche senza disporre dei titoli, pur versando il margine cosiddetto il margine giornaliero, quindi una sorta di garanzia che consente loro di operare vendendo strumenti di cui non hanno il possesso per poi ricomprare i prezzi più bassi, e questo fa sì che il mercato sottostante, cioè il mercato azionario in particolare, poi subisca delle perdite anche importanti, come è successo ieri, come sta succedendo ora. E una situazione analoga si verifica sui titoli di Stato, perché l'allargamento del differenziale significa che stanno vendendo i titoli dei paesi a cui le faceva riferimento, quindi Grecia, Portogallo, anche Irlanda, sebbene l'Irlanda abbia già deciso una serie di manovre che dovrebbero metterla al riparo, però anche l'Irlanda, ad esempio, se guardiamo il titolo a 10 anni paga ben 1,74 in più rispetto alla Germania, quindi anche l'Irlanda è nell'occhio del ciclone indirettamente. Ecco, su questo, Drusiani, io vorrei capire un'ultima cosa. Sarebbe, secondo lei, da operatore, da chi ci sta dentro, il caso di tornare a bloccare le vendite allo scoperto? Io credo in primis... Vendere allo scoperto vuol dire vendere qualcosa che non hai. Certo. E vai e speculi su quello che sarà il prezzo futuro. È chiaro che in una logica ribassista tu speculi sulla differenza che arriva e ci guadagni su questa differenza, perché tu quella cosa non l'hai mai fisicamente comprata. Io credo che il sogno di chi ama una finanza vera sarebbe quello di, non dico eliminare, ma di consentire che l'attività sui futures, cioè sugli strumenti derivati di cui si parlava prima, servissero solo per copertura del rischio, non per speculazione, perché tenga conto che il 90% dell'attività è sicuramente di carattere speculativo, quindi alla sua domanda io rispondo di sì, sarebbe opportuno che si ritornasse purtroppo a una finanza rigida, perché è vero che in teoria i problemi che avevamo nel 2007 e nel 2008 potrebbero essere superati, però potrebbero dire che non lo sono del tutto. Se oggi siamo ancora in queste condizioni, evidentemente qualcosa non va. Quindi... No, ma voglio dire, è indubbio che, adesso lo vedremo anche con Mario De Aglio, che la situazione economica e la ripresa sia fragile, fragilissima, che i disoccupati americani siano più delle attese. Oggi la Germania ha dato un dato sulla produzione industriale brutto, meno 2,2%, però... Fa un po' specie che gli unici in questo momento a godere, a ballare, siano le banche d'affari che hanno creato questa situazione. Purtroppo, dico purtroppo sì, perché ripetersi di ciò che è avvenuto nel 2007, ci siamo tanto spaventati, poi siamo di nuovo nelle stesse condizioni, quindi è evidente che non basta il cambiamento di un presidente negli Stati Uniti. Credo che sia molto complesso e difficile mettere in una situazione come di questa, che è abbastanza pericolosa, sistemarla e dare delle regole ben precise che evitino che l'uomo sia così ingordo da guadagnare anche laddove non sarebbe opportuno, però credo che difficilmente si riuscirà ad arrivare in tempi brevi quantomeno ad una situazione che eviti queste giornate, dico drammatiche tra virgolette, però sono giornate che comunque ledono la ricchezza di tante persone. Ledono anche l'opinione, quel poco che era rimasto, se mi permette Drusiani, del mondo della finanza. Lo dico perché poi ci sono molte persone corrette, molte persone che fanno un lavoro, la finanza serve perché... Quando è buona aiuta le imprese, aiuta le famiglie, concede i mutui, concede i prestiti, però insomma, qui vedo che alcuni ascoltatori si spingono a suggerire di mandare i 400 operai del Porto Vesme, dell'Alcoa, che rischiano il posto, a Wall Street, e vedere cosa succede. Non esageriamo, anche se l'idea non ha una sua capacità di attrazione. Lei ha evocato un tema che è quello dell'etica, e allora torna il nostro Gordon Gekko. L'avidità, non trovo una parola migliore, è valida. L'avidità è giusta, l'avidità funziona, l'avidità chiarifica, penetra e cattura l'essenza dello spirito evolutivo, l'avidità in tutte le sue forme, l'avidità di vita, di amore, di sapere, di denaro, ha improntato lo slancio in avanti di tutta l'umanità e l'avidità. Ascoltatemi bene, non salverà solamente la Tel del Carta, ma anche l'altra disfunzionante società che ha nome America. Professor Mario De Aglio, buonasera. Buonasera a lei. Allora, questo è il vecchio film di Oliver Stone, però ci siamo sempre lì. Io ringrazio intanto Angelo Drusiani, buon fine settimana al responsabile della gestione di Banca Albertini. Dopo le informazioni per chi è in viaggio tocchiamo questo tema, perché a me sembra, io ho usato l'esempio di quello che si ferma a soccorrere l'automobilista e poi l'automobilista che viene soccorso gli ruba la macchina, però c'è una favola, quella di Esopo, no? Se non ricordo male era la rana e lo scorpione. Qui a me sembra che quella favola finiva dicendo: ma perché mi hai punto se siamo in mezzo all'acqua? Perché sai, io l'istinto non lo controllo. Qua mi sembra che siamo tornati a un livello in cui lo scorpione, finanza speculativa, non ce la fa a non pungere la rana che la stava traghettando, che l'ha già traghettata in un al di là del fiume, ossia gli stati che hanno imbarcato debito pubblico. Allora, è indubbio che le banche d'affari, non ce l'ho, però insomma, siano tornate a fare la stessa cosa che facevano prima della crisi. Perché da un lato abbiamo visto questa speculazione che adesso commenteremo, dall'altro, dopo che Goldman Sachs aveva preso 10 miliardi di aiuti e si era salvata tramite il salvataggio di AIG, che è il colosso americano dei mutui, era molto esposta lì, se non gliela salvavano saltava per aria anche lei, ha distribuito 16 miliardi di dollari di bonus, giusto perché passata la festa gabbato lo santo. Ieri Bank of America ha annunciato 4 miliardi e mezzo di dollari di bonus per la divisione, quindi di premi per la divisione investment banking, che vuol dire 400 mila dollari a testa. Un po' di populismo ce lo facciamo passare. A Porto Vesme ringraziano. Professor De Aglio, mi dica come si fa a scommettere che salti per aria la Spagna e che senso ha lo scorpione che punge la rana che l'ha salvato. Lo scorpione è non solo ingrato ma anche molto miope. Come nella favola di Esopo. Se vogliamo continuare con un po' di populismo e di linguaggio colorato, non si accorge del piede che sta per schiacciarlo. E questo piede è poi un'economia reale che prima o poi si ribella, insomma. Non è possibile che i milioni di operai tipo Porto Vesme, e non solo operai, ma tutta una società civile che ci sta dietro nei paesi più avanzati del mondo, stiano sempre a guardare quando succedono queste cose e quando loro perdono il lavoro. Fino adesso abbiamo avuto delle reazioni emotive molto visibili, la gente che sale sui cornicioni, la gente che chiude i manager in una stanza. Naturalmente se non cambiano le premesse, cioè se non succede qualche cosa sulla ridistribuzione di una parte di reddito, io non penso proprio che questi manager potranno godersi questi soldi in santa pace. Sì, adesso io non vorrei arrivare allo scontro sociale, però è indubbio che la politica qualcosa debba fare. Ancora più duro di lei, oggi a Roma, all'inaugurazione della LUIS, il premio Nobel dell'economia Stiglitz, Joseph Stiglitz, ha vinto il premio Nobel nel 2001, mise in guardia dall'esuberanza irrazionale in anni non sospetti, c'era ancora Greenspan alla banca, alla Federal Reserve. Stiglitz dice: stanno facendo i soldi sul disastro che loro hanno creato. It's very hard to know precisely what is going on. È molto difficile capire esattamente cosa sta accadendo. Ciò che è chiaro è che non c'è stato un evento che ha fatto precipitare le cose, come invece è successo con il fallimento di Lehman Brothers. Nulla giustifica un improvviso cambio di prospettiva. Alcuni pensano che ci troviamo di fronte solo ad una situazione di nervosismo sul mercato. Sono molto colpito dal fatto che in Grecia siano state adottate tutta una serie di misure diverse e non ci si sia orientati solo verso un settore. Da un lato si è cercato di ripristinare la fiducia nello Stato con una maggiore trasparenza e adottando riforme di vario tipo. Dall'altro sono state prese misure sul fronte della ristrutturazione del bilancio. C'è la consapevolezza che queste misure potrebbero avere dei potenziali effetti negativi e quindi, nel contempo, si sta cercando di assumere altre misure, non di bilancio, che possano compensare con effetti positivi. Tra queste cito, per esempio, il tentativo di accrescere e favorire l'afflusso del credito o creare una sorta di banca dello sviluppo. Quello che è certo è che i problemi della Grecia devono essere affrontati in una prospettiva di più lungo termine, puntando sul miglioramento dell'istruzione e sulla ristrutturazione economica. Una cosa di cui sono convinto è che l'Europa deve reagire con misure decisamente più forti, più energiche, per cercare di aiutare la Grecia. Credo che alcuni paesi siano stati travolti da una sorta di tsunami, ma non sono stati travolti per colpa loro. La Spagna, per esempio, aveva un bilancio inattivo, contrariamente a molti altri paesi, ed è stata molto più brava degli Stati Uniti a regolamentare il comportamento delle banche. L'unico errore che ha commesso è stato di dare fiducia ai fondamentalisti del bilancio e quindi di aver seguito un certo comportamento nell'allocazione delle risorse e di aver mancato di intervenire una volta che le cose hanno cominciato ad andare male. C'è da dire che in questi paesi più piccoli la speculazione risulta più facile e quindi la situazione è più critica rispetto alle economie più grandi. Sono convinto anche che l'Europa prima o poi interverrà in aiuto di questi paesi e prima lo fa, meglio è. In the end, Europe in one way or another will come to the help of these countries. It would be a lot better if it did it sooner than later. Così, premio Nobel Joseph Stiglitz. Molti ascoltatori ci stanno scrivendo che il segnale di Radio 24 è disturbato in Lombardia, Bologna, Piacenza. Ci dispiace, stiamo cercando di porvi rimedio, una nota di servizio. Immagino che anche il maltempo non aiuti. Professor De Aglio, lei è d'accordo con quanto il suo collega Giulio Sapelli disse un mese fa a questi microfoni? Se Obama scatenerà la guerra contro Wall Street, e Obama un po' l'ha fatto, questi lanceranno la bomba atomica. Anche qui è un'espressione colorata, però è colorita anche, ma è d'accordo o no che deve stare attenta l'amministrazione americana perché questi se no iniziano ad affossare i mercati e fanno giochi tipo quelli che buttarono fuori dallo SME la lira e la sterlina? Ma guardi, questo è sicuramente possibile, non possiamo escludere che questo ribasso così forte, così improvviso sia una specie di segnale di avvertimento. Però mi sembra fare un po' tanta dietrologia, e allora dietrologia per dietrologia io penso ancora che il Presidente degli Stati Uniti abbia più bombe atomiche degli altri. Ci troveremo in un mondo finanziario in macerie, ma non mi pare che questi, vogliamo chiamarli pirati, insomma, così, questi scavettatori pirati ricchi. Come? Pirati ricchi, questi scavezzacolli della finanza possano avere qualche vera possibilità di vittoria se tutto il mondo soffre per questo. Ma una legge che proibisca le vendite allo scoperto o le limiti proprio ai casi estremi e proibisca la banca di confondere, come vorrebbe fare Obama, l'attività di credito alle imprese e alle persone con l'attività di hedge funding, quindi di speculazione, no? Questa sarebbe sicuramente una mossa che porterebbe una maggiore, questa seconda soprattutto, una maggiore razionalità al mercato. Io arriverei a dire che bisognerebbe considerare seriamente l'accesso ai vari mercati specializzati. Per esempio oggi sia io che lei possiamo comprare un future in petrolio, anche se noi non commerciamo, non usiamo questo petrolio abitualmente. Però possiamo speculare. Possiamo speculare, è proprio necessario che ci venga lasciata questa possibilità. Sì, ho capito, se poi dice se le conseguenze sono queste, insomma. Appunto, allora, diciamo che i provvedimenti restrittivi in maniera razionale, di buon senso, di breve o di lungo periodo sono molti. È per questo che dico che il Presidente degli Stati Uniti ha tante atomiche. Tante atomiche nelle sue mani. Grazie anche all'economista Mario De Aglio, a Barbara Bianchi e Mauro Del Corno per l'assistenza in redazione, e da Sebastiano Berzoni l'auguro di una buona serata. Noi ci risentiamo lunedì dalle 17 in poi.